Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. In Grecia il governo arresta Tsipras, il leader di Syriza ottiene il 35% delle preferenze, giurerà questa sera, domani il governo. Truccati i dati sulle emissioni negli Stati Uniti, Volkswagen ammette la truffa, rischia una multa da 18 miliardi di dollari e ritira 500.000 auto. Ieri l'incontro tra il Papa e Fidel Castro, mentre Francesco si prepara ad andare negli Stati Uniti. Un dissidente cubano a Radio 24, per noi nessun cambiamento. La procura ricorre contro la sentenza sul naufragio della Concordia. Schettino era stato condannato a 16 anni, troppo poco secondo i PM. Riforme oggi, la giornata del confronto all'interno del PD, questo pomeriggio la direzione del partito, la mediazione sarebbe vicina. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il nostro punto, il punto di Radio 24 a metà giornata sui fatti che avvengono in Italia e nel mondo, oggi così come domani e dopodomani in diretta da Expo, in diretta dallo spazio Emilia Romagna. Se volete venirci a trovare, se volete venire a dare un'occhiata, siamo sul Cardo, poco lontano dal padiglione dell'Unione Europea, anzi praticamente di fronte. In apertura oggi andiamo in Grecia, dove Alexis Tsipras ha ottenuto nuovamente la guida del paese nelle elezioni che si sono svolte ieri. Iniziamo dal racconto di questo voto e di questa giornata con la nostra inviata Valeria De Rosa. Valeria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, ai nostri ascoltatori. Allora, lo sentivate anche nei titoli, lo hai ricordato tu, quest'oggi già l'incarico da parte del presidente greco e poi il giuramento, il governo è già pronto. In realtà l'esecutivo è già pronto da ieri sera, perché subito dopo gli exit poll Tsipras ha incontrato il leader di Anel, Kamenos, e già è stata buttata giù la squadra di governo, e quindi si replica la stessa coalizione che è andata al governo 9 mesi fa. Il programma, almeno dal punto di vista europeo, è lo stesso, e quindi restituire dignità ai greci e migliori condizioni per la vita di questo paese. Sicuramente Tsipras si impegnerà sul taglio del debito, che probabilmente potrebbe già avviare le trattative verso ottobre, quando ci sarà una prima revisione da parte delle istituzioni internazionali sul nuovo memorandum. Dal punto di vista interno invece Tsipras ha puntato la sua campagna elettorale molto sulla corruzione, quindi bisognerà vedere se a questo punto, per questo male endemico che è la corruzione per la Grecia, ci saranno davvero degli scatti in avanti. Possiamo far notare tre cose su queste elezioni: sicuramente l'affermazione di Tsipras per la terza volta, soprattutto del suo leader, perché questa è una vittoria di Tsipras e del suo carisma, anche in un momento ancora molto difficile per il paese, e anche nonostante il fatto che in fondo dopo il voto del referendum Tsipras ha fatto un voltafaccia, diciamo così, firmando il terzo memorandum con le istituzioni europee. L'astensionismo, che è stato molto molto alto, oltre il 40%, il 44% non è andato a votare, e soprattutto molti giovani non sono andati a votare perché disillusi da questa politica. E poi lo scarso interesse, se così possiamo dire, da parte dei media internazionali rispetto alle volte precedenti. Forse c'erano ad Atene la metà dei giornalisti, e questo diciamo forse anche perché la questione dei migranti ha ovviamente ha preso il sopravvento anche sulle elezioni, che tutto sommato non cambieranno di moltissimo gli esiti sia economici che politici di questo paese. Ti ringrazio, grazie a Valeria De Rosa, con la quale torneremo a collegarci più avanti nel corso di Effetto Giorno, e sentiremo anche qualche voce che hai raccolto nell'arco di queste giornate ad Atene. E intanto ci colleghiamo con un altro inviato, quello del Sole 24 Ore ad Atene, Vittorio D'Aroldo. Vittorio, innanzitutto buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, si apre, come abbiamo sentito anche dalla nostra Valeria De Rosa, una fase di fatto in continuità con la precedente per la Grecia. Vorrei capire da te quali sono i prossimi passi dal punto di vista economico, a che punto siamo con l'implementazione del cosiddetto memorandum firmato con i creditori. Vittorio. Sì, la situazione è abbastanza difficile, perché il governo, nella fase appunto delle elezioni, della campagna elettorale, ha perso tempo prezioso e in questo momento quindi deve fare una rincorsa. Non a caso la portavoce della Commissione europea ha subito detto questa mattina di non perdere tempo, ma anche il presidente della Camera di Commercio e Industria di Atene, Costantinos Michalos, ha detto bisogna fare in fretta. Su che fronti? Il primo è quello della ricapitalizzazione delle banche che, oltre ai controlli ancora in vigore sui capitali, blocca l'attività dell'economia, economia che andrà quest'anno in recessione del 2%, mentre la disoccupazione resta al 27%, quindi una situazione economica molto difficile. Inoltre il primo commento è che il fatto che Siriza abbia perso il gruppo di estrema sinistra, quello di Unità Popolare che bloccava le privatizzazioni, questo potrebbe dare una nuova spinta a questo elemento molto importante, sia perché naturalmente incassando denaro potrebbe ridurre il fabbisogno, ma anche perché si potrebbe dare nuova fiducia agli investitori internazionali che fino ad oggi erano rimasti naturalmente molto cauti nella possibilità di investire in borsa o in privatizzazione in Grecia. Quindi questi sono gli elementi su cui bisogna fare in fretta, non si deve perdere tempo, e poi ci sono ancora le riforme strutturali da approvare. C'è ancora naturalmente un problema molto complesso sulla fiscalità agevolata agli agricoltori, dove ci sono molte situazioni ancora ambigue da appunto eliminare, e poi ci sono ancora le pensioni anticipate da varare. Quindi ci sono ancora problemi molto impopolari, riforme difficili, ma ora Tsipras non ha più alibi, lo deve fare, perché altrimenti in una verifica che probabilmente sarà in autunno, forse il primo di novembre, non arriveranno i soldi per la ricapitalizzazione delle banche. Grazie a Vittorio D'Arolda anche per questi chiarimenti. Ora parliamo di Volkswagen. Il titolo in borsa in questo momento sta perdendo circa il 20%. Come sentivate dai nostri titoli, l'azienda ha messo a segno quella che pare essere una vera e propria truffa negli Stati Uniti. La Volkswagen sta pagando cara in borsa la truffa ai controlli sulle emissioni dei motori diesel negli Stati Uniti. Le azioni del colosso di Wolfsburg hanno perso stamattina a Francoforte fino al 22% a 126 euro rispetto ai 162 di venerdì sera, con un crollo della capitalizzazione di 19 miliardi euro. In pratica il titolo sconta per intero la maxi multa che il gruppo potrebbe vedersi infliggere dalle autorità americane, multa che nel peggiore dei casi potrebbe arrivare fino a 18 miliardi di dollari. Anche se difficilmente, secondo gli analisti, la sanzione sarà così elevata, al suo impatto bisogna raggiungere il costo dei richiami di quasi 500.000 veicoli coinvolti, il probabile calo delle vendite di auto diesel negli USA, particolarmente negativo perché Volkswagen stava tentando proprio con i diesel di recuperare terreno, e i per ora incalcolabili danni di immagine. Ieri l'amministratore delegato di Volkswagen, Martin Winterkorn, ha ammesso la frode e si è scusato per l'accaduto. Il board prende molto sul serio, ha detto, le violazioni accertate, e io stesso sono profondamente dispiaciuto di aver deluso la fiducia dei nostri clienti. Il manager ha detto di aver affidato a una società esterna l'incarico di condurre un'inchiesta sul caso, e Volkswagen ha sospeso con effetto immediato la vendita negli Stati Uniti dei modelli equipaggiati con il motore incriminato, ma la posizione dello stesso Winterkorn, il cui mandato è stato appena rinnovato fino al 2018, non sembra più così solida. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche di questo torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno. Cercheremo di capire come sia stato possibile per Volkswagen realizzare una truffa di queste dimensioni. Veniamo al viaggio del Papa oltreoceano a Cuba e poi negli Stati Uniti. Gli esuli cubani scappati diversi anni fa dal paese non credono agli effetti positivi del disgelo tra Cuba e gli Stati Uniti e all'importanza anche di questo viaggio del Papa. Tra loro c'è lo scrittore Carlos Carralero, che vive a Milano, autore di molti libri sull'argomento. L'ultimo, Fidel Castro, l'abbraccio letale. Lo ha intervistato Katia Caramelli. Non serve l'intenzione, perché non è che lui è andato a liberare al popolo cubano. Forse Wojtyla aveva più intenzione di questo Papa, sinceramente lo dico. E tutto il processo comunque di disgelo che è cominciato con gli Stati Uniti, ci ha avuto un ruolo il Vaticano? Ha avuto il ruolo, però questo disgelo ha fatto qualche cambiamento politico. C'è stato qualche progresso politico, no? Allora mi dica, venga con me al consolato cubano o all'ambasciata a Roma e dica se mi fanno entrare mai in Cuba. E io non è che sono un blanger, sono un attivista per i diritti umani e basta. Perché non mi fanno entrare a me? Perché Raul Castro si è battuto perché togliessero dalla lista dei paesi esportatori del terrorismo, che ha esportato perché ha fatto guerre ovunque. Il Papa che cosa di più potrebbe fare? il Papa, gli Stati Uniti e l'Unione Europea dovevano chiedere a Raul Castro di fare qualche cambiamento, però politico, almeno lasciare la libertà di avesse, non arrestare i dissidenti o la gente normale. Cioè non crede nel disgelo. Da parte del governo non ci sarà nessun cambiamento. Così dunque il dissidente cubano sul viaggio del Papa. Siamo alla situazione dei profughi, già ne accennavamo poco fa parlando delle elezioni greche, perché anche tutto questo ha avuto un impatto evidentemente sul voto. Facciamo il punto di questa giornata che ancora una volta si muove tra politica e cronaca. Iniziamo da quest'ultima, dalla cronaca dunque, sentiamo cosa sta succedendo ancora oggi ai confini orientali d'Europa. Anna Marino, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Iniziamo appunto dalla cronaca, l'ultima tragedia del mare tra Turchia e Grecia, dove si cercano ancora i dispersi. 13 persone sono morte annegate, 4 erano bambini, quando un traghetto turco ha urtato un barcone al largo di Kanakale. Un altro barcone con 46 persone si è rovesciato nella notte al largo di Lesbo. In 20 sono stati soccorsi dalla guardia costiera greca, gli altri 26 risultano dispersi e davanti a Lesbo è stato recuperato il cadavere di una bambina di 6 anni. Notizia di poco fa, sempre sul fronte caldo in Grecia, una barca di legno che trasportava 70 migranti si è arenata sulla costa dell'isola greca di Rodi, salvate 994 persone da venerdì in Grecia. Ed è una nuova marcia di migranti che tentavano di raggiungere l'Europa via terra dalla Turchia, che è stata bloccata dalla polizia nei pressi di Istanbul. Circa 700 uomini, donne e bambini, in gran parte siriani, sono fermi nella stazione di autobus di Istanbul da una settimana. Intanto decine di migliaia di persone sono arrivati in Austria, mentre l'Ungheria ha riaperto solo parzialmente il confine con la Serbia. La polizia slovena ha cominciato invece a innalzare una barriera difensiva al valico di frontiera con la Croazia di Bregana. Anche qui si vuole evitare che i migranti entrino illegalmente in modo indiscriminato nel paese attraverso campi e boschi. E la Croazia infine ha chiuso dalla mezzanotte scorsa, solo per i camion e il traffico di mezzi pesanti, il valico di frontiera con la Serbia. Questa è la cronaca. Questa è la cronaca, Anna, e invece dal lato politico che cosa registriamo oggi? Certo, ci sono incontri preparatori e bozze. L'Europa rimane comunque spaccata a livello diplomatico e ora c'è l'ipotesi di multare gli stati per ogni profugo rifiutato. Si parla di una multa di 6.500 euro a migrante rifiutato, che sarebbe assorbito da altri paesi a cui andrebbero le somme, fino a un massimo di 30% del totale della quota da ricollocare. Sarebbero comunque accantonate quelle sanzioni di cui si parlava, dello 0,002% del PIL per i paesi che non ricollocano. Rimane sul fronte del no alle quote il gruppo di Visegrad, lo ricordiamo, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria, e oggi si sono riuniti i loro capi della diplomazia a Praga con il ministro degli esteri del Lussemburgo, che appunto ha la presidenza semestrale dell'Unione Europea. Domani invece a Bruxelles si riuniscono i ministri degli interni dei 28, mercoledì toccherà i leader europei, e proprio in vista di questo vertice il presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, nella lettera di invito ha avvertito: deve assolutamente finire lo scaricare le responsabilità. È essenziale stabilire una politica migratoria europea credibile. E per ora è tutto, a te la linea, Simone. E grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. Andiamo al tema delle riforme, nel quale si continua a dibattere soprattutto all'interno del Partito Democratico. Oggi quello che potrebbe essere il cosiddetto Red dell'Azione, ma oppure un grande avvicinamento tra la minoranza e la maggioranza sul tema di come si eleggono i nuovi senatori. Il servizio. Da Palazzo Madama si sposta al Nazareno oggi il braccio di ferro sulla riforma costituzionale all'interno del Partito Democratico. Nel primo pomeriggio c'è l'attesa riunione della direzione convocata da Matteo Renzi. I fedelissimi del Premier ostentano ottimismo sui numeri della maggioranza al Senato. Se la riforma non passerà, indubbiamente dovremmo trarre tutte le conseguenze del caso, avverte però la vice segretaria Serracchiani, convinta comunque che il governo andrà avanti fino al 2018. I margini per un'intesa sono stretti, Renzi e i suoi sono contrari a rimettere mano alle parti della riforma già approvate in doppia lettura, e l'altro vice segretario Guerini ribadisce in modo chiaro che l'elezione diretta dei senatori non sarà inserita in Costituzione, altrimenti si stravolgerebbe la riforma. Sul punto la minoranza Dem però non molla. Secondo l'ex segretario Bersani, se c'è una vera disponibilità basta un millimetro per trovare un accordo. Più duro invece da Torre, che accusa il governo di cercare voti tra i senatori del centrodestra e chiede all'esercito esecutivo di avere più rispetto per il ruolo del Parlamento, in particolare su materie costituzionali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. In realtà il governo in questa fase sembra molto più concentrato sui temi economici. Da una parte il DEF, il documento di economia e finanza approvato venerdì, dall'altra parte la legge di stabilità, dove tra affermazioni e smentite alla fine forse un intervento sulle pensioni potrebbe esserci. Sentiamo. Messo da parte il capitolo delle nuove stime contenute nella nota di aggiornamento del DEF, parte ora il conto alla rovescia della legge di stabilità attesa entro il 15 di ottobre. Un intervento da 27 miliardi, quello del governo, con l'obiettivo dichiarato di imprimere una svolta alla crescita affinché la ripresa sia strutturale e non sia frenata dalle turbulenze internazionali. Per attuare le riforme annunciate però servono risorse, da qui il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles perché conceda al nostro paese una maggiore flessibilità sul deficit. Quanto agli interventi, questi sono stati ampiamente anticipati da Renzi e Padoan. Da una parte il taglio delle tasse sulla casa, la decontribuzione per i neoassunti e il rinnovo del contratto dei lavoratori pubblici, dall'altra il contenimento delle spese sanitarie, la razionalizzazione delle società controllate dagli enti locali e i risparmi sulla pubblica amministrazione. Due però i temi che da qui a metà ottobre dovranno essere chiariti: flessibilità nelle pensioni ed esodati, anche se, vista la delicatezza del tema, le norme potrebbero arrivare anche nel corso dell'iter. Sulla previdenza non si tratterà certamente di un intervento generalizzato, si ipotizza al momento la cosiddetta opzione donna per consentire l'uscita anticipata alle lavoratrici, ma con una pensione tutta calcolata sui contributi, e poi un intervento ad hoc per tutelare proprio chi ha perso il lavoro a pochi anni dall'andata in pensione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo è il quadro dalla politica. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, un punto invece sul fine settimana sportivo, sia dal lato del campionato che evidentemente dal lato della Formula 1. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Sì, hai ragione, dal lato della Formula 1, tanto per cominciare, weekend perfetto quello della Ferrari, che ha ritrovato la pole position sabato. Con Vettel, con lo stesso Vettel ieri ha vinto una corsa che lo porta a meno 49 da Hamilton, che si è ritirato, e si potrebbe aprire una piccola speranza, magari una lotta per il titolo, anche perché la Mercedes sembra avere diversi problemi. Poi c'è l'azzurro vivo del tennis e della pallavolo, entrambe battono la Russia, la pallavolo ai mondiali, ora altre due partite con Argentina e Polonia e la prospettiva di qualificarci direttamente per Rio, che sembra diventare una realtà. Il rugby male sabato contro la Francia. E poi il calcio, mi sembra siano tre le notizie importanti che emergono da questo fine settimana: l'Inter che continua a vincere anche se di misura, anche se non è bellissima, ma è estremamente, terribilmente efficace; il Napoli che adesso esagera, dopo il 5-0 in Europa League con il Brugge ripete lo stesso risultato contro la Lazio; e la Roma che si incarta sul Sassuolo nel giorno del gol numero 300 di Totti. Poi c'è la Juve che torna a vincere a Genova pur senza brillare. Non fa quasi più notizie invece il Torino, che batte la Sampdoria ed è secondo in classifica dietro l'Inter. E grazie anche a Carlo Genta. Tra l'altro abbiamo parlato di Ferrari, vi ricordo che siamo in diretta dallo spazio Emilia Romagna di Expo Milano 2015, e proprio accanto a noi, insomma, se non volete venire a trovare Radio 24, c'è esattamente una Ferrari da Formula 1. Il traffico, e poi ritorniamo a parlare di Volkswagen, di auto, ma di Volkswagen, perché cercheremo di capire come esattamente sia stato possibile mettere a segno questa truffa sulle emissioni che potrebbe costare alla Volkswagen 18 miliardi di dollari e che in questo momento le sta facendo perdere il 20% in borsa. Tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Truccati i dati sulle emissioni negli Stati Uniti, Volkswagen a mettere la truffa rischia una multa da 18 miliardi di dollari. In Grecia il governo resta a Tsipras, il leader di Siriza ottiene il 35%, giurerà questa sera. Riforme, oggi la giornata del confronto all'interno del PD, questo pomeriggio la direzione del partito. La procura ricorre contro la sentenza sul naufragio della Concordia. Schettino era stato condannato a 16 anni, troppo poco, secondo i pubblici ministeri. Massimo Nascimbene, condirettore di Quattro Ruote. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci spieghi com'è stato possibile che la Volkswagen truffasse in questo modo i controlli sulle emissioni negli Stati Uniti? Ma io, se posso dire, il sospetto che non la Volkswagen nello specifico, ma molti costruttori usassero dei software dedicati ai cicli di omologazione per ottenere dei risultati di consumo e di emissioni molto buoni aleggiava da anni. Noi l'abbiamo anche scritto più volte. Però non siamo mai riusciti a portare a casa una prova. In sostanza cosa succede? Il costruttore nel programmare la centralina di gestione del motore, mette una scrittura specifica per cui quando la centralina riconosce che la macchina sta effettuando il ciclo di omologazione, si comporta in un certo modo, che ovviamente serve a ottimizzare consumi ed emissioni. Dopodiché, quando il motore funziona in altre condizioni, entra un'altra logica di funzionamento differente. Io ho il sospetto che la Volkswagen sia stata solo la prima a essere colta con le mani nella marmellata, ma che il problema sia molto molto diffuso. Quindi, Massimo, facci capire, per semplificare ancora meglio per i nostri ascoltatori, nel momento nel quale si fa il test per i consumi e le emissioni, la centralina funziona in un modo, il software riconosce quando l'omologazione è finita, quando questo test è finito, e passa ad un altro modo di funzionare che aumenta i consumi e le emissioni e consente evidentemente una prestazione migliore del motore. Questa è in sostanza la cosa. Sì, sostanzialmente sì, detto un po' la grossa, sì. C'è una modalità dedicata al ciclo di emissioni e consumi, e che differisce dal funzionamento regolare normale del motore. Ripeto, questa cosa non è mai stata provata, e più di qualche mezzo sorriso dei tecnici che lavorano nei laboratori di prova motore io personalmente non sono mai riuscito a portare a casa, però il sospetto gira da anni. Perché? Perché la differenza che si riscontra tra i valori di omologazione e i consumi reali sono clamorose, noi lo pubblichiamo tutti i mesi, troviamo, ovviamente noi facciamo delle prove su strada che sono diverse dalle prove di laboratorio, in condizioni non così perfettamente ripetibili come sono i test di omologazione, però troviamo degli scostamenti che viaggiano tra il 20 e il 50%, non il 3 o 4, per cui evidentemente qualcosa che non funziona c'è. Io ti ringrazio, tu hai questi sospetti, Massimo Nascimbene, io ho i sospetti che sulla base di quello che ci hai detto probabilmente torneremo a chiamarti altre volte. Grazie a Massimo Nascimbene, condirettore di Quattro Ruote, per averci aiutato a capire questa vicenda di Volkswagen. Torna da noi Dimitri Deliolanes, che è corrispondente in Italia di ERT, che è la TV pubblica greca. Dimitri, bentornato. Bentrovati. Rivince Tsipras. Comunque non si apre una fase di governo facile, no? Beh sì, sicuramente non per ragioni di stabilità del governo, perché quella sembra garantita, ma sicuramente nella gestione di questo durissimo accordo che è stato costretto a firmare Tsipras all'inizio di luglio. Lì sarà veramente la prova delle sue capacità politiche. E che cosa può mettere in campo da questo punto di vista? Beh, sicuramente un tratto di carisma personale che gli ha consentito di ottenere questo 35%, che, come spesso ormai accade, i sondaggi non immaginavano. No, beh, nel caso greco non è che non immaginavo, nel caso greco c'è, infatti è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Atene, c'è stato proprio il dolo, c'era un'operazione di manipolazione del voto, molto probabilmente. Comunque, tornare al discorso di Tsipras, sì, lui dovrà riuscire a tenere i suoi impegni duri nei confronti dei creditori, quindi le misure di austerità, e nel frattempo dimostrare sul piano interno di essere capace di distribuire in maniera più equa il peso di queste durissime misure, per esempio facendo pagare le tasse anche a chi non le ha mai pagate finora. L'ultima domanda che ti voglio fare, Dimitri, è i problemi che gli potrebbero creare i suoi alleati, che sono stati i suoi alleati fino ad ora, il Partito Nazionalista, e che però, come sappiamo, ha posizioni un po' diverse, un po' discoste da quelle che ha espresso Tsipras. Ma insomma, nel primo governo Tsipras la collaborazione è stata idilliaca, non c'è stato nessun elemento sul quale fossero emersi contrasti, anzi erano maggiori contrasti all'interno di Syriza piuttosto che con gli alleati dei greci indipendenti, per cui francamente io non vedo che ci siano problemi di stabilità di questa maggioranza. Ripeto, i problemi saranno nel gestire questa difficile fase di applicazione di queste dure misure. Grazie per la chiarezza e per la rapidità a Dimitri Deliolanes, corrispondente in Italia di ERT, che è la TV pubblica greca. Adesso ci occupiamo di cronache, della richiesta della procura per Schettino, insomma, in appello. Si richiede il processo di appello e si dice, insomma, la condanna in primo grado non è stata abbastanza forte. Sentiamo. La pena a 16 anni di reclusione per l'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino non è congrua e così la Procura di Grosseto ha deciso di presentare ricorso in appello contro la sentenza del febbraio scorso per il naufragio della nave in cui morirono 32 persone. Al processo di primo grado l'accusa aveva chiesto per Schettino 26 anni di reclusione, ma la condanna alla fine è stata di 16 perché il tribunale ha accumulato 5 anni per il reato di disastro colposo, 10 anni per gli omicidi plurimi colposi e un anno per il reato di abbandono di persone minori o incapaci. Non ha invece riconosciuto, come richiesto dalla pubblica accusa, l'aggravante del naufragio colposo e neppure l'aggravante della colpa cosciente per gli omicidi plurimi colposi. Per Schettino è prevista inoltre l'interdizione per 5 anni dalla carica di comandante di nave, per 4 mesi dalla professione di comandante e perpetua dai pubblici uffici. Appello alla sentenza è stato presentato anche da alcune delle parti civili. Manca ora solo il ricorso di Francesco Schettino per chiedere al contrario un ulteriore sconto di pena. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è stata un'operazione antimafia questa notte, 3 uomini arrestati e 450.000 euro sequestrati a Vittoria in provincia di Ragusa nel corso dell'operazione Box condotta dalla Polizia di Stato, aziende che con metodo mafioso imponevano al mercato ortofrutticolo di Vittoria i loro prodotti. Uno dei tanti segnali, secondo il nostro Daniele Biacchessi, che Cosa Nostra non è morta. Chi l'aveva data per morta dovrà oggi ricredersi. Cosa Nostra, la mafia siciliana, non è stata scalzata dalle 'ndrine calabresi oppure dalle batterie criminali che imperversano nei quartieri di Napoli. Cosa Nostra è ancora viva e controlla attraverso una rete capillare i territori siciliani. Prendiamo come esempio l'operazione contro le cosche di questa mattina. Tutto si muove nelle terre dove è ambientato il commissario Montalbano. Un gruppo mafioso era al centro di un'attività criminale di vaste proporzioni. Gli uomini della polizia hanno trovato armi, esplosivi di ogni genere, ingenti quantitativi di denaro, in particolare un vorticoso giro di assegni provenienti da attività illecite come usura e narcotraffico. Soltanto pochi giorni fa la DIA, nel silenzio generale dei media, aveva fornito una dettagliata mappa delle cosche siciliane. Tutte le province, nessuna esclusa, sono contaminate dagli affari di Cosa Nostra. Trapani è ancora il regno del latitante numero uno Matteo Messina Denaro. Il territorio palermitano è suddiviso in 14 mandamenti, 78 famiglie. Tra questi, negli 8 mandamenti del territorio cittadino risultano incardinate 33 famiglie, alcune delle quali sembrerebbero aver assunto un ruolo di riferimento anche per tutte le altre province siciliane. I gruppi criminali della provincia di Agrigento si sono nel tempo proiettati verso paesi dell'America del Nord come Stati Uniti, Canada, seppure in minima parte verso il Venezuela e il Brasile, mentre quelli della parte orientale verso i paesi del Nord Europa come Germania e Belgio. Dunque la battaglia dello Stato contro le mafie è ancora lunga in Sicilia così come in tutto il paese. Daniele, così il nostro Daniele Biacchessi. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo per sentire che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione torneremo in Grecia. Avete sentito Biacchessi parlare di Napoli, di quello che sta succedendo sulle strade di Napoli. Ebbene, è proprio là che andremo. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sono stati truccati i dati sulle emissioni negli Stati Uniti. Volkswagen ammette la truffa, precipita in borsa del 20%, rischia una multa da 18 miliardi di dollari. In Grecia il governo resta a Tsipras, il leader di Syriza ottiene il 35% delle preferenze, 145 seggi, giurerà questa sera. La procura ricorre contro la sentenza sul naufragio della Concordia. Schettino era stato condannato a 16 anni, troppo poco secondo i pubblici ministeri. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, al microfono sempre Simone Spezia per il punto a metà giornata su quello che succede in Italia e nel mondo, il punto di Radio 24, in diretta anche oggi dallo spazio Emilia Romagna all'Expo di Milano. Siamo al Cardo se ci volete venire a trovare. Un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie: il 7 ottobre la cancelliera Merkel e il presidente Hollande interverranno assieme alla sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. È una notizia importante perché un avvenimento che ha un solo precedente. Avvenne nel 1989 con il cancelliere Kohl e il presidente Mitterrand. Probabilmente il tema evidentemente saranno i migranti e i profughi. Torniamo ad Atene adesso alla nostra inviata Valeria De Rosa per ritornare a parlare delle elezioni greche. Su queste naturalmente ha avuto un impatto, come abbiamo raccontato, anche proprio la questione dei profughi. Valeria, hai anche delle voci a farci ascoltare. Sì Simone, come dicevamo anche nella prima parte del programma, sicuramente queste elezioni sono state contraddistinte da tre elementi: l'affermazione, la riaffermazione di Syriza e di Tsipras per la terza volta, e poi l'interesse piuttosto scarso da parte dei media internazionali e il grande astensionismo dei greci al voto. E anche chi è andato a votare, diciamo che è andato a votare per pragmatismo. I greci in questo momento hanno scelto, hanno deciso intanto di credere al racconto che ha fatto Tsipras, cioè quello di aver lottato duramente con le istituzioni europee e di essere riuscito a portare a casa il miglior accordo possibile, e poi hanno deciso anche di puntare su colui che in questo momento, proprio perché ha firmato il terzo memorandum, è l'unico che forse può ottenere qualcosa di più, perché certamente Nuova Democrazia di May Marakis non avrebbe chiesto ulteriori sconti tra virgolette per i greci. Allora queste sono alcune voci che abbiamo raccolto ieri ai seggi. I expect that we're going to have a stable government that could be able to govern for at least questo ragazzo years. Che ho incontrato ieri mi ha detto di essere fiducioso, di aspettarsi che questo governo sarà un governo stabile per almeno 3 anni, che riuscirà a ottenere dei miglioramenti per i greci. Diciamo, tutto sommato, è una delle poche voci ottimiste che ho incontrato. Dopo di lui ho incontrato un collega alle prime armi, un giornalista alle prime armi, il quale mi ha detto che in realtà non si aspetta niente di nuovo, quindi per i prossimi 5 anni, mi ha detto, ci aspettano le riforme da fare, ci aspetta l'applicazione di questo memorandum, che certamente continuerà a portare austerità nel paese, quindi le condizioni soprattutto delle classi più deboli dal punto di vista sociale forse non beneficeranno subito dei miglioramenti e delle misure che sono state imposte dalle istituzioni europee. Grazie a Valeria De Rosa da Atene. Noi ci spostiamo a Napoli per parlare dell'ondata di violenza che ha colpito la città nelle ultime settimane, dove si trova la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, abbiamo poco tempo, abbiamo un paio di minuti, ma so che hai fatto anche una chiacchierata con questore. Ci puoi raccontare che giornata è oggi? Sì Simone, allora sono ancora qui in questura e intanto vi racconto di questa città che da una parte registra l'appello, l'ennesimo appello del Cardinale Seppe, che ancora questa mattina ha invocato una maggiore presenza dello Stato, visto l'allarme sociale che si sta creando in città dopo gli ultimi omicidi in città e nell'Interland. E a questa richiesta del Cardinale ha risposto ai nostri microfoni da questore Guido Marino, che ha definito addirittura offensive, diciamo, certe definizioni questi appelli allo Stato, perché continua a sottolineare come la risposta in realtà a questa anche ondata criminale sia forte e sia costante, e numeri alla mano si registrano in realtà anche un calo dei reati, senza voler sottovalutare questa ondata di criminalità che riguarda soprattutto una serie di ragazzini vicini alle bande criminali, ragazzini come quelli che a Giuliano Paesone, alle porte di Napoli, hanno aggredito alcuni vigili dopo che avevano rimproverato, diciamo, altri giovani. Lo stesso città dove non si è voluto far girare alcune scene di Gomorra, della fiction Gomorra. Una Napoli di nuovo attraversata da questa grande allarme criminalità, ma dall'altra parte si registrano anche i primi segnali di una maggiore collaborazione con le forze dell'ordine. Tanto è vero che Piazza Bellini, una piazza del centro molto attraversata e molto distrutta dai giovani, alcuni hanno contribuito a far arrestare degli spacciatori di droga, e questo è un segnale positivo che porterà anche a venerdì ad una manifestazione qui a Napoli in una di queste piazze vissute anche problematicamente. Allora, Raffaella, ti devo interrompere, ma torneremo a parlarne sicuramente nei prossimi giorni. Adesso c'è il traffico, Platero, e ci ritroviamo alla fine per i saluti. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Papa Francesco, fra Cuba, dove si trova oggi, è l'America, dove arriverà domani, grandissima attesa, devo dire, qui negli Stati Uniti. Il Papa argentino ieri ha visto Fidel Castro, ha partecipato a una grande messa in piazza dove sventolavano bandiere con l'immagine di Che Guevara, ha chiesto che La Habana e Washington diano il buon esempio nel rafforzare quel dialogo che lui stesso ha aiutato. Pace contro conflitto, un tema centrale di Francesco, un tema centrale del nostro tempo. Sappiamo che dietro i conflitti vi è purtroppo la predisposizione sempre più marcata alla violenza, non solo quella orrenda dell'ISIS che taglia le teste di innocenti, ma violenza nella nostra società, nelle case, nelle scuole, per le strade. Comunque, oggi vorrei esplorare proprio questo tema della violenza affrontando un problema centrale qui in America, la militarizzazione della polizia. Questo anche attraverso un film documentario molto interessante sugli eccessi delle SWAT teams, le squadre speciali. Prima però voglio partire da un fatto di cronaca. Well, so far the fraternity and the school have nothing to say in light of these latest charges, but the parents of this 19-year-old. Avete sentito questo reportage televisivo? Ci racconta di una storia di violenza, secondo me estrema. Un ragazzo di 19 anni, due anni fa, è stato ucciso nel momento in cui voleva cercare di entrare in un gruppo universitario, in una fraternity, come si chiamano qui, in un gruppo goliardico, e doveva sottoporsi a certe prove. Le prove erano delle prove molto difficili e Chun Sien Deng ha battuto la testa, 19 anni, ed è morto. Tutti questi membri della fraternita, di questo gruppo goliardico, sono stati incriminati, sono andati in processo e sono stati ritenuti colpevoli di omicidio. La storia che cosa propone? Propone il problema della violenza estrema negli Stati Uniti con la polizia. Ecco, la polizia in qualche modo ha dato il cattivo esempio. Proprio l'altra sera sono stato a vedere un film dedicato a questo argomento. Il film si chiama Peace Officer, il poliziotto della pace, e il protagonista, diciamo, di questo film si chiama Dub Lawrence, che è stato uno sceriffo nello Utah, il quale ha introdotto le SWAT team nello Utah per poi svegliarsi un certo mattino per accorgersi che proprio queste sue SWAT teams, queste sue creazioni, le SWAT teams sono delle squadre di agenti speciali che intervengono solo in casi di emergenza, avevano ucciso suo genero. E Dub Lawrence, questo poliziotto in pensione, cosa fa? Ha deciso di darsi un nuovo mestiere e di andare a fare delle inchieste in varie situazioni nel paese in cui gli SWAT teams hanno commesso dei crimini. Dub Lawrence è considerato un eroe e un grande oratore, ha parlato in congresso e io ho avuto la fortuna di incontrarlo e vi ripropongo una chiacchierata che ho fatto con lui. Sono subito dopo la proiezione del film Peace Officer e ho con me il personaggio chiave di questo film e devo descrivervelo perché è come un John Wayne, ma un John Wayne vero, è un vero cowboy dai grandi valori, e sto parlando di Dub Lawrence. Dub, hi, here we are. Hi, thank you. Come comincia la sua storia e come le viene l'idea di costituire le SWAT teams in Utah? My name is William J. Dub Lawrence. I was actually born in North Carolina. In una fattoria di tabacco della Carolina del Nord. Il mio nome è William Dub J. Lawrence. Sono arrivato molto più tardi nello Utah. Poi nel 1974 sono diventato sceriffo, 42 anni fa, e ho costituito nella mia contea la prima SWAT team dello Utah. Per farlo sono andato a Los Angeles agli inizi degli anni 70 per studiare come funzionavano le SWAT team che erano state costituite là in risposta alle dimostrazioni della popolazione di colore, dimostrazioni che allora erano violentissime. E poi che è successo? È successo che nel 2008 quella stessa SWAT team ha ucciso mio genero in una situazione di stallo in cui si sarebbe potuto trovare facilmente una soluzione. Sono invece stato testimone della sua morte e per me è stato un episodio catalizzatore. È stato questo che mi ha portato ad essere di nuovo coinvolto in quello che fa la polizia. Credo fermamente in quella polizia che si comporta in modo civile. Io avevo inventato un giuramento molto particolare per la mia SWAT team. Lo vuole sentire? Sì, sì, mi piacerebbe sentirlo. As a law enforcement officer, my fundamental duty. Come poliziotto che deve far rispettare la legge, il mio dovere fondamentale è quello di servire l'umanità, di salvaguardare vite umane e proprietà private, di proteggere gli innocenti contro coloro che cercano di ingannarli, i deboli contro gli oppressori o coloro che vogliono intimidirli. E devo difendere la pace contro la violenza o il disordine e rispettare i diritti costituzionali alla libertà, all'uguaglianza, alla giustizia di tutti gli uomini. Ecco, i miei sottoposti dovevano tutti fare questo giuramento, perché questo era lo spirito con cui dovevamo servire la nostra comunità. C'erano addestramenti molto duri, ma soprattutto c'era questo credo diffuso che noi eravamo lì per proteggere la gente dalla violenza, non per alimentarla. Ma perché lei crede che ci sia tanta violenza oggi? C'è più violenza perché magari prima la si vedeva meno, non c'erano telefonini che facevano riprese, però più o meno siamo sugli stessi livelli, oppure c'è davvero più violenza? There is more violence because there's more injustice. C'è certamente più violenza perché c'è più ingiustizia. Ci sono molte, troppe persone che sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie. E la violenza, soprattutto quando viene imposta ingiustamente, porta a violenza. E l'ingiustizia crea altra ingiustizia, così come le armi portano ad armi più potenti e pericolose. Nel momento in cui ci sono delle leggi che non proteggono il cittadino, c'è questa esplosione di violenza. Nel momento in cui tu, come poliziotto, puoi uccidere delle persone ed essere impunito perché sei protetto dalla legge, e la soluzione è una sola: eliminare alcune delle forme di immunità su cui possono contare i poliziotti e che consentono loro di abusare della loro posizione di forza commettendo un crimine. Ecco, c'è un aspetto interessante di questo suo film, in cui lei di fatto è il protagonista, e cioè che gli atti di violenza sono tutti contro dei bianchi, però abbiamo visto che invece gli afroamericani sembrano essere ancora più colpiti. C'è una differenza secondo lei? It's a systemic problem. It's a national problem. Sicuramente possono esserci delle differenze, ma oggi il problema è un problema sistemico, è un problema nazionale. Il nostro sistema ha fallito in tali e tanti modi che dobbiamo restaurarlo, dobbiamo ripararlo e restituire fiducia ai cittadini. Vede, quando nella notte una squadra SWAT va e sfonda la porta di una famiglia ignara perché ha confuso un nome e magari potrebbe sparare, come è già successo in un caso ad un padre di famiglia innocente, semplicemente perché quello si era presentato con una mazza da baseball per difendersi. Beh, vuol dire che davvero abbiamo superato ogni limite e dobbiamo fare qualcosa. Lei ha parlato della necessità di perdonare. Lei ha perdonato il poliziotto che ha ucciso suo genero. E pensa che l'America possa uscire da questa spirale? I think I can say yes, I have. And in the film, sì, l'ho perdonato. I thought it was very admirable of my daughter. Ma la cosa importante è che l'abbia perdonato mio figlio. Lei lo dice nel film: mia figlia si è resa conto che quel poliziotto magari era sotto pressione, ma il perdono è importante, perché solo attraverso questa apertura e questa disponibilità possiamo pensare di uscire da questa spirale. Lei mi chiede se l'America ce la farà. Beh, io spero proprio di sì. Dobbiamo farcela. E credo che un film del genere, soprattutto se sarà trasmesso nelle stazioni di polizia, potrà aiutare molto il dibattito. Non soltanto per responsabilizzare i poliziotti, ma per far capire ai politici che certe cose devono cambiare. Per ora è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!